Andiamo a capire che cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo venerdì 30 marzo, intanto i titoli dei giornali. Europa torna l'allarme sul debito, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, borsa e spread torna la paura, e La Stampa, borse giù, allarme, recessione. Dunque la situazione finanziaria in primo piano per questi quotidiani. Per Repubblica, articolo 18, ecco come cambierà. Mentre il Fatto Quotidiano e il Giornale aprono su queste vicende drammatiche che hanno coinvolto prima un artigiano a Bologna, ieri un operaio a Verona. Il Fatto Quotidiano, i lavoratori si bruciano. Mentre il Giornale, effetto Monti, roghi umani, un altro lavoratore fa il bonzo. Per Libero, la sobrietà non paga. Il Messaggero, borsa giù, risale lo spread. Mentre per l'Unità, rallenta Italia. Il Manifesto è generalissimo, e la Spagna paralizzata dallo sciopero generale, mentre Avvenire, giovani basta, precarietà, questo il monito di Napolitano, il Presidente della Repubblica. Io però, come dire, voglio lasciarvi in questa rassegna stampa del weekend con delle sane notizie dal mondo della casta, così passerete un weekend tutti sereni e tranquilli. È scattata la scure per gli ex presidenti della Camera. Potranno avere, da quando hanno finito il mandato, da presidente della Camera, i privilegi solo per 10 anni. Li potranno mantenere solo per 10 anni, autista, segretario, uffici, 4 credo segretarie, solo per 10 anni, non di più. Camera scure solo su 2 ex presidenti. Come solo su 2 ex presidenti? Ebbene sì. È successo questo, era il titolo del Corriere, ma così anche sulla Stampa, ex presidenti alla Camera, tagli a metà. Cioè la Camera dei Deputati, l'ufficio di presidenza, ha deciso appunto che da quando si smette il mandato di presidente della Camera uno può avere i privilegi solo per 10 anni. Il che vuol dire che per esempio Irene Pivetti e Pietro Ingrao, che sono scaduti come yogurt, devo dire, alla presidenza della Camera da 10 anni, Irene Pivetti in realtà 10 anni saranno tra un anno perché era nel 94, non avranno più i privilegi. Però con una mossa abbastanza inspiegabile, racconta dei giornali, Fausto Bertinotti, Luciano Violante, Pier Ferdinando Casini, che non sono più ex presidenti, che non sono più presidenti della Camera da un po' di anni, non si sa perché per loro i 10 anni partiranno a finire dalla prossima legislatura. Quindi, in base alle nuove regole, Luciano Violante, Pier Ferdinando Casini e Fausto Bertinotti godranno per altri 10 anni di dotazioni come uffici, auto e segreterie. Ovviamente anche Gianfranco Fini, perché i 10 anni partono da quando finisce il mandato di presidente della Camera. Tanto che Irene Pivetti si è infuriata. Ha detto: sono stati dei forcaioli con me e Ingrao. Sentite che dichiarazione, un assurdo paradosso. Per colpire la casta si finisce per colpire chi con la casta non c'entra nulla, come me o Ingrao, ha detto Irene Pivetti, buttando per strada degli onesti lavoratori. Un cittadino qualunque, scrive il Corriere, potrebbe restarci male nel leggere una simile dichiarazione. Ma dice Irene Pivetti, non si tratta di me, io dalla politica non prendo più una lira, si tratta di licenziare qualche persona, cioè le segretarie per esempio a disposizione dell'ex presidente Pivetti, ma abbiamo l'idea che le persone come nella Russia zarista sono di proprietà del feudatario o abbiamo rispetto per i lavoratori? Insomma, Irene Pivetti accusa, è stata una norma ad personam, cioè per colpire me e Ingrao, e invece non si sa perché i 10 anni di perdita dei privilegi dopo la fine del mandato per Violante, Casini e Bertinotti non sono già partiti, partono dalla prossima legislatura, non si sa. Irene Pivetti tra l'altro fa anche un'intervista a Libero a pagina 8, sai che risparmio, così tolgono il lavoro a dei poveracci. Se vogliamo essere chiari, viene colpita gente come i miei collaboratori che rimarranno senza lavoro. Lo ripeto, è una logica da Russia zarista. Siamo entrati nell'ottica del feudalesimo quando le persone erano una sorta di proprietà privata senza rispetto per i lavoratori. Insomma, dice questo Irene Pivetti. Ma guardate che dal mondo della casta le notizie non sono finite. Io vi devo dire questa e reggetevi, perché è tutto vero. La Camera ha approvato ieri il bilancio consuntivo del 2011 e preventivo del 2012. C'è gente che si è astenuta. Io ve le leggo così, come le dà Repubblica, pagina 15. A ogni parlamentare viene dato ogni anno un chilo di colla. La colla. Non lo so, per rimanere attaccati alla poltrona, si potrebbe ironizzare. Cosa se ne fa? C'è un deputato che ha detto, ma cosa ce ne facciamo di un chilo di colla? Il PDLino Gregorio Fontana. Perché mi danno un chilo di colla? Cosa ci faccio io con un chilo di colla? Non lo so io. Ma ci sono casi più eclatanti. Ovviamente tutto questo costa. Una volta al mese il commesso bussa alla porta di ogni deputato e consegna 2.000 fogli di carta con carta intestata della Camera. 24.000 in un anno. 24.000 fogli in un anno. E che devono scrivere? Ma anche vengono consegnate ogni 15 giorni 6 gomme, 3 da penna e 3 da matita. Poi nel 2012 la Camera spenderà 370.000 euro per conferenze, manifestazioni e mostre. Vabbè. Poi nell'era del web, della posta digitale, spendiamo 600.000 euro alla Camera per le spese postali. E per stampare tutti gli atti, si spendono 7.150.000 euro, portati da dei commessi che hanno delle spalle come Schwarzenegger su dei carrelloni da una parte all'altra della Camera, quando siamo nell'era delle chiavette, dei file digitali, eccetera. 7.150.000 euro di stampa di carta. Io però voglio sapere che cosa ci fanno con la colla. Con la colla, un chilo di colla all'anno, non è neanche tantissimo, un chilo di colla. Cosa ci farà? Io non lo so veramente, però servirà qualcosa la colla, non so, incollare i fogli di carta intestati, 24.000 all'anno, intestati Camera dei Deputati. 24.000 fogli sono tanti, eh? Allora, giusto perché lo sappiate, l'onorevole Pippo Fallica ha detto: io la colla che ricevo ogni anno la accatasto con la mia segretaria, mai usata. Effettivamente, che te ne fai di un chilo di colla? Non lo so, qualcosa potrà servire. Comunque, in dotazione a ogni parlamentare un chilo di colla all'anno, insieme ad altre spese, ovviamente. A che serve nessuno lo sa. Parlando di cose più serie, la riforma del mercato del lavoro è ancora sulle prime pagine dei giornali, in una giornata in cui il ministro Passera ha detto ci sarà la recessione, durerà tutto l'anno, in cui se uno guarda i mercati le borse vanno giù, se uno guarda la Spagna c'è lo sciopero generale, se uno guarda lo spread aumenta, e allora insomma la situazione rischia di tornare un po' difficile. Se mai lo è stato meno difficile. Napolitano, il Presidente della Repubblica, ha fatto un appello: basta giovani precari e sfruttati. Questo è il monito che arriva dal Colle dopo giorni di polemica tra partiti. A proposito delle polemiche coi partiti, il Premier Mario Monti prende carta e penna e scrive una lettera che viene pubblicata in prima pagina dal Corriere della Sera. I meriti dei partiti e la maturità del Paese, questo è il titolo. Mario Monti esordisce così: caro direttore, vedo solo ora che alcune considerazioni da me fatte in una conferenza tenuta l'altro ieri a Tokyo presso il giornale Nikkei hanno suscitato vive reazioni in Italia. Ne sono rammaricato, tanto più che quelle considerazioni espresse in inglese avevano l'obiettivo opposto a quello che fuori dal contesto è stato loro attribuito. Insomma, la famosa frase "io ho il consenso ai partiti no", evidentemente Monti dice, è stata interpretata nel senso opposto di quello che volevo dire. Certo, però Monti all'interno nella lettera scrive: resta una riserva all'estero, una percezione errata, un forte dubbio. La riserva riguarda il mercato del lavoro. Con quali tempi il Parlamento approverà la riforma proposta dal governo? La sua portata riformatrice verrà mantenuta sostanzialmente integra o verrà diluita? La percezione errata è quella che porta ad attribuire essenzialmente al governo tecnico, tra virgolette, lo mette Monti, il merito dei rapidi cambiamenti in corso. Il forte dubbio discende da quella percezione, il dubbio che il nuovo corso possa essere abbandonato quando dopo le elezioni parlamentari torneranno governi politici, sempre tra virgolette. In realtà, Scrive Monti, finché la percezione errata e il dubbio non saranno dissipati, la fase attuale verrà considerata come un'interessante parentesi, degna forse di qualche investimento finanziario a breve termine, ma le imprese straniere saranno riluttanti a considerare l'Italia un luogo conveniente nel quale investire e creare occupazione. Insomma, Monti parla dei dubbi che ci sono all'estero, che questo possa essere un governo di parentesi e che poi possa tornare la politica vecchio stampo. In realtà poi Monti non critica i partiti, anzi dice: se da qualche mese l'Italia ha imboccato risolutamente la via delle riforme, lo si deve in parte al governo, ma in larga parte al senso di responsabilità delle forze politiche, che pur caratterizzate da forti divergenze programmatiche hanno saputo dare priorità all'interesse generale del paese. E dopo le elezioni certo torneranno governi politici, come è naturale. Perfino in Giappone ho dichiarato che il sottoscritto sparirà e che il montismo non esiste, ma ritengo che ciò non debba essere visto come un rischio. Insomma, Monti, dopo le polemiche, tende a gettare un po' di acqua sul fuoco. A proposito di articolo 18, Repubblica mette in prima pagina, ecco come cambierà, a pagina 2 e 3 ci sarebbe la modifica in questo senso, e vale a dire saranno i giudici a stabilire se il licenziamento per motivi economici sia un abuso o no, cioè se maschera in realtà delle altre tipologie di licenziamento e discriminazioni. Monti l'ha detto, eviteremo abusi, cioè che un imprenditore possa licenziare per motivi economici, in realtà mascherando dietro questa dicitura un licenziamento per altri motivi. Secondo la nuova formulazione che si sarebbe studiando all'interno del governo, il documento è il lavoratore che deve dimostrare la discriminazione. In realtà si sta pensando di dare il potere al giudice di stabilire, quando si trovano di fronte a un licenziamento per motivi economici, se nasconda o meno dei motivi discriminatori. Questa su Repubblica. Intanto, ovviamente, la cronaca fa registrare un nuovo caso drammatico dopo l'artigiano che si è dato fuoco a Bologna. E tra l'altro, guardate, ecco, quando si dice l'umanità o la disumanità delle istituzioni, che non ne do un giudizio morale su questo, ma il dato di fatto è che l'artigiano che si è dato fuoco a Bologna lo ha fatto nel giorno in cui doveva presentarsi in giudizio per una storia di fatture false. Ebbene, lui sta lottando tra la vita e la morte. La giustizia non è che si può fermare per questo. E allora, pagina 15 del Messaggero, condanna beffa all'artigiano in fin di vita. Mentre si dava fuoco o poco dopo, è stato condannato la stessa mattina. L'artigiano di 58 anni si è dato fuoco appunto davanti all'Agenzia delle Entrate, lotta tra la vita e la morte, ma il suo avvocato nel frattempo ha patteggiato una condanna a 5 mesi per infedele dichiarazione dei redditi. Ecco, 5 mesi di pena per l'uomo che è arrivata, una pena è arrivata poche ore dopo questo suo terribile gesto. E beh, ieri un altro operaio marocchino, da 4 mesi non si pagano, si è dato fuoco a Verona. Fortunatamente c'erano dei carabinieri, visto che l'ha fatto in una piazza centrale, erano lì in zona e hanno subito spento le fiamme. Dunque per lui la situazione è meno grave dell'artigiano di Bologna. Secondo alcuni testimoni, ha dichiarato prima di darsi alle fiamme: non voglio andare a spacciare, voglio lavorare. E per questo e poi dopo questo si è appunto dato fuoco, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Da 4 mesi non riceve il lavoro, è regolare, celibe, senza figli in Italia. Adriano Sofri firma un commento, la Spoon River della crisi, che vi segnalo su Repubblica. Una Spoon River della crisi, imprenditori si impiccano, curano di farlo nei loro capannoni, nel giorno festivo, fuori dall'orario di lavoro. La classe dirigente, le persone di cui ieri si pubblicano i maxi stipendi, saranno magari altrettanto commosse dell'umanità minuta per questo stillicidio di immolazioni disperate. Il fatto è che ai nostri giorni i poveri, gli impoveriti e soli che si danno fuoco hanno fatto tremare i potenti del mondo più di un esercito di forconi. Questo contagio di suicidi è infatti un segno di resa e solitudine, ma non solo. È una rivendicazione estrema di dignità. Fa ricordare, dopo una lunghissima parentesi, quella onorabilità borghese per la quale ci si vergognava di una rovina, anche la più onesta, e si scriveva una lettera di amore, di perdono alla famiglia, affare di gente all'antica. È questo la crisi per tanti, non sapere più come fare, non rassegnarsi alla destituzione della propria personalità. Perdere il lavoro vuol dire perdere il proprio posto, fisso o no, nel mondo. E non è vero che lo si ceda al prossimo della fila, quel posto sgombrato. Ieri si dava la cifra di 1 migliaio di suicidi nell'ultimo anno per ragioni economiche legate alla crisi. E in questa situazione volete ancora parlare di articolo 18? Proprio così. Per dire questo, che non è un argomento tecnico, nemmeno di quella tecnica sindacale che ha un importante valore sociale, è un affare di libertà e di dignità delle persone minuscole, della loro libertà con la minuscola. Così Adriano Sofri, il commento ovviamente è più lungo, ne ho letto alcuni stralci, lo trovate su Repubblica in prima pagina e poi a pagina 35. D'altronde è tutto un tasse, aumento della benzina, la benzina, andate sul Sole 24 Ore, armatevi di pazienza, armatevi di qualcosa per magari poi contrastare il nervosismo e leggetevi pagina 3, benzina, una corsa senza fine, la benzina ormai è quasi arrivata a 2 euro. Sfondato il tetto di 1,90, il Sole 24 Ore fa un'operazione meritoria perché regione per regione, visto che c'è un'accisa di qua, un'accisa di là e quindi poi in una regione magari costa più di un'altra perché c'è anche la tassa sulle disgrazie, no? Sapete, c'è una disgrazia, una calamità naturale, le regioni possono aumentare l'accisa sulla benzina. E comunque Abruzzo, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, dove costa di più, dove costa di meno? Non posso leggere ovviamente tutto il prospetto, ovviamente distributore marca per marca, Eni, SIP, Kuwait, Shell, Tamoil, Total Erg, tutti i prezzi regione per regione e tipologia di benzina, sono tutte uguali, ma insomma rivenditore per rivenditore, trovate tutti i prezzi, le differenze dove costa di più, dove costa di meno, cercate di essere fortunati di aver imbroccato almeno la regione, il posto giusto dove costa un pochino di meno. Ecco, tassa di qui, tassa di là, poi dopo uno legge ancora quello che il Fatto Quotidiano scrive delle consulenze che le regioni fanno, le consulenze, ci sono gli studi per le trote in una regione, c'è lo studio per la neve in un'altra regione, ieri c'era il meteorologo di Benevento che secondo me è spettacolare, a Benevento pagano un meteorologo per il meteo locale, ma da questo studio delle consulenze sulle regioni ripartiremo dopo le informazioni sul traffico. E allora le consulenze delle regioni, noi di regioni parleremo, di quanto si lavora in regione alle 8:30, le consulenze, allora pagina 2-3 del Fatto Quotidiano, tutti gli enti devono rendere note le loro consulenze che sono pubblicate sul Ministero della Pubblica Amministrazione, quindi potete trovarle su internet. Il Fatto Quotidiano da 2 giorni va a spulciarle, ci sono dei casi, il consulente per la neve, uno per guardare la TV, il consulente per guardare la TV, 30.000 euro dalla Regione Piemonte all'Università di Torino per guardare per una settimana i programmi TV di 9 emittenti locali e studiare nuovi format più adatti ai minori. In Friuli 26.370 euro per contratti a persone fisiche qualificate per verificare se nevica. Che qualità devi avere per verificare se nevica? E poi 17.000 euro per studiare la genetica delle trote. Insomma, sarà importante anche questo. 960 euro, vabbè, qui squiglie per un corso di merletto. Ah, beh, il corso di merletto non è male. Guardate, cari ascoltatori, leggetevele se volete un po' sorridere. Pagina 2-3 del Fatto Quotidiano, ci sono un po' di consulenze, eh? Vabbè, il merletto, no? Verificare se nevica è importante in Friuli, no? La regione del nord Italia, quindi è importante verificare, ma non ci sono dei dipendenti regionali che possono fare questo? No, sempre le consulenze esterne, 26.000 euro a te, 26.000 euro di qua, 960 euro per il corso di merletto e così, sono 30, tanto sono sempre soldi pubblici. Oh, guardate, io la metto anche sul nostro sito Facebook, la Fedeide continua, la saga di Emilio Fede. Veramente sembra che ogni giorno, se uno vuole anche un po' sorridere, vorrebbe leggere una puntata, la puntata successiva. Ieri Fede si è barricato, Emilio Fede, in ufficio dopo che è stato licenziato da Mediaset. Oggi fa due interviste, una al Fatto Quotidiano, una al Giornale, le trovate a pagina 5 del Fatto Quotidiano. L'esordio è questo: ma le sembro il tipo di marito che per divorziare dalla moglie si taglia i coglioni? Questo è Emilio Fede, perché dice: io avrei detto che è colpa di Fedele Confalonieri, mai. Il giornalista Antonello Caporale di Repubblica si è inventato tutto, ha fatto una fiction. E comunque è un incubo, ma con Silvio tutto bene. Sono arrivati due del personale e io, scherzando, gli ho detto: che fate, mi licenziate? E loro: sì. Ecco, questo è stato, secondo Emilio Fede, l'annuncio del suo licenziamento. E sul Giornale, invece, a Stefano Zurlo: vi racconto la verità sul mio addio al TG4. Tra l'altro il Giornale ironizza anche, si fa un articolo 18 ad personam, l'articolo 18 ad fedem. Cioè ha detto: sono licenziato da direttore ma torno presto e faccio un programma. L'azienda Mediaset in serata ha fatto sapere, dice il Corriere della Sera: non ci sono trattative per collaborazioni future con Fede, per noi il rapporto è da considerarsi chiuso. Insomma, capite che è una, sembra la saga della Fedeide, perché ogni giorno c'è qualcosa di da raccontare. Allora, vorrei raccontarvi cosa ha fatto Spike Lee, perché lo avevo annunciato. Spike Lee ha scatenato una caccia all'uomo facendo un tweet, no? Su Twitter, un tweet errato. La vicenda è drammatica perché ricorda, la racconta Paolo Mastrolilli sulla Stampa, pagina 15. Ricorda la vicenda di questo ragazzo di recente, un ragazzo nero che è stato ucciso da un vigilante che proteggeva delle ville. Che scusa aveva addotto questo vigilante nell'uccidere questo ragazzo nero? Mi sembrava sospettato perché aveva un cappuccio, era sera, aveva un cappuccio sulla testa. Da qui, tra l'altro, è nata anche, ci sono parlamentari in America che si presentano tutti col cappuccio. Anche lo stesso Obama ha detto: avrebbe potuto essere mio figlio quella persona, quel ragazzo di 17 anni ucciso, Trayvon Martin. Beh, che cosa ha fatto Spike Lee? Ha ritwittato a tutti i suoi follower di Twitter l'indirizzo errato di dove abiterebbe questo vigilante che ha sparato uccidendo questo ragazzo. Ha detto a tutti i suoi seguaci: abita lì. E invece, solo che era un caso di omonimia, e quindi c'è una coppia di coniugi che da qualche giorno, David ed Elaine McLean, vive nel terrore. Perché Spike Lee per errore ha dato il loro indirizzo dicendo: andate lì, perché vive lì il vigilante che ha ucciso questo ragazzo nero. Sono stati costretti a rifugiarsi in un hotel. Il motivo è questo: il regista Spike Lee ha pubblicato il loro indirizzo attribuendolo a George Zimmerman, il vigilante che a febbraio ha ammazzato questo adolescente nero, Trayvon Martin. Non è bastato a Spike Lee chiedere scusa in un successivo Twitter dicendo: chiedo scusa a questa famiglia, l'indirizzo è sbagliato, lasciateli stare. In realtà vivono con l'incubo di essere uccisi, di che qualcuno possa andare a vendicarsi. Questa coppia di anziani della Florida, Spike Lee scatena la caccia all'uomo col tweet sbagliato, poi dice: mi scuso, per colpa mia una coppia vive nel terrore. È stato confuso il loro indirizzo con quello dell'assassino. Attenzione a Twitter.